alle 10. Q10. Che cosa c'hai? Sono tutti i giovani. Sta lì! È un po' dal brutto! Beh! Se diciamo in via parte, adesso spengo tutto, aspetta! Sennò è un macello. Capito. Però di altro va, sì. Sto tu. Ho detto che di altro va, funziona. Ho detto, non mette la portante. Tu lo attacchi e però schiacci la portante e non fa. Cioè a casa di Franco stava funzionando. Come? A casa di Franco funzionava. No, non hai capito, no. Volevo adattare un microfono a un apparecchio, però non va. Perché non mette la portante. Allora sarà qualche filo da sostituire. Sì, lo so. Da cambiare, dai. Perché i numeri non sono quelli, bisogna guardare nello schema. Perché io li ho invertiti i numeri, ma tutto. È possibile, allora non so chi sì. Sì, infatti, bisogna provarli con un testa, i chicciu e tu misuri. E vediamo che sono che funzionano. È per semplice, per forza, a fare così. Tanto qui c'è tutto. Allora se lo vuoi chiedere domani. Appena che c'ho un coso libero, pare il consiglio, sai. Sì, infatti. Bisogna fare lì perché non ti dici. Il posto a quattro, a Rodico, a Rodoi, a Rodico, e da poi non anda, Se a me ci sono quelli, quindi, che sono stati spostati, magari non sono quelli della portata. Perché non l'ho neanche provato, perché non lo posso provare, lo mio è diverso, da Rodoi. Infatti. Il sonno, una latitante. Non lo puoi provare, no. Quasi un mese, la latitante. Bevo Rudessere, controllavo Rudessere, cazzo di viri, proprio, che dovevamo sostituire. Se un attimo mi avvicino, qua. Sempre San Giovanni. Sì, sto salendo adesso, tu. Sì, a Siberia. Ma io ho avuto un problema, ti copio sempre. Sì, cappa, No, ma ne sto scendendo perché devo fare una commissione al volo, ma cari, già lo sai cosa, dai. Mi sono completamente da risabbassone un attimo. Eia, eia. Mettiamo la faccia, dai. Eia, ok, bravo. Una bomba, lei. Si vede l'antennino che va nella macchina di Bonarridianti. Eppure funziona bene. Io lo so, già. Ma io no, l'ho ricevuto sempre a porta, se non ho problemi. Non so se vuoi problema. Prima sì che va via i problemi. Se parava chi non ti dia più. Avanti cos'è? Sì, se vedi l'antennino ti metti a ridere. Un trauma. Bellino. Sì, no, non è né una sigma, è un'antenna che se tu la vedi lì, e con chi sei? Sì, e c'è con quella lì. Non ti faccio. Cazzo. Ti sono contenti, ti ne vanno a ridere. Ecco le antennine. Anche lo stile, molti usavano lo stile della boomerang. Boomerang, quella grande. Oh, no. Già ce le ha anche quelle, ne ha più di una. Di quelle lì, solo che questa qui è tutta in metallo l'antenna e guarda, la devi vedere, non è né una sigma né, non si sa manco di gamma è scappa. Allora, male, mi sono andato l'altro giorno, ne ho beccato due che stavano andando verso Alghero lì, li sentivo sempre, non ho male. Sì, ma questa, se tu vedi questa antennina, c'è lui sta uscendo con questo, e scende con ghista, non pare manco un'antenna di baracchino. Sì, la so, è piccola. Ah, l'hai vista chi è? Ho vista. Con ghista e scende. Allora che se tutta va bene, ma guarda l'antenna sul tetto lo ricevi sempre, tu va dove va ma lo ricevi sempre, a me la piace è proprio negativo, ma lo sai dove è proprio negativo, giù al porto di Porto Torres, lì si abbassano tutti i segnali. Sì, lo so, ma io l'ho ricevuto anche da Sentino, da Fiume Santo, e arrivava bene qua. Sì. Ancora non ho avuto l'occasione di riceverlo, però. Sì, ti sto dicendo che c'è forse quell'antenna. Ancora non ho avuto l'occasione. Prima o poi ci avrò l'occasione pure io, sparate pure a noi, senti a bomba. Ricerca su internet un attimo, voglio vedere una cosa, ma cavamini un dubbio. Prova Natalia, che vado un attimino da Sara, a vedere cosa. Via. E chi è? Grazie a tutti. passata anche in campagna. Mamma mia, per carità. Io sono stanco. Sì, perché sto facendo dei lavori, sì, te l'ho detto, di pittura, di fare la spazzamento, vicino all'ospedale, dai, dove siamo all'ospedale. Extra, extra, extra, extra. sempre il conta X, può fare raga, se pizza craccata. Perca, è già perca. Un attimo, mi aspetto un secondo. Cosa stai facendo tu lì? Passa le uglio. Paolo, la capite che oggi mangio due o tre cacche mera e mi si cocco. Cazzo due o tre cacche mera? Io mi faccio due o tre cagate e mi si cocco. E mi costruisce un cacio beretta che ti hai mangiato. E tu due o tre cacche mera? E tu mari? Ciao mari! Figaro, figaro, figaro! Massimo Sergente, Emanuele, mi prendete voi là, mi prendete voi. Va bene, vai tu lì. Povero X, Giovanni. Avevi ragione, Natalino, poi sei il canale dei morti. Non c'è mai nessuno, va. Ehi, e qualche persona dice, sì, non c'è mai nessuno, se non entra mai, Edo. Chi ha computer, chi è in ascolto, chi è... trovi 3-4 persone, poi tutti spaditi. Comunque, ma noi amplificò me questa, no? E a Vulia, troppo amplificato. Allora, 1, 2, 3, com'è? Troppo, poi amplificato. Troppo brutto. Va bene, lascialo così, dai. Aspetta, passo un po'. Ecco. Così dai. A quanto ce l'hai? A metà. Prova a 4. Cioè abbassare ancora? A metà quanto è il numero? È già a metà. No, adesso è un 4. No, a metà quanto è? A 6, a 5, il numero non è A. Ce l'hai il numero, aspetta, devo bucarlino. Allora, adesso è esattamente a 4 e mezzo. Così va bene, certo, però è un bel amplificato. Lo so, già va bene, Emanuele. Ho il microfono su, raga. Un bel amplificato, è bene. Sono appena arrivato, vi ho portato a mia nipote da l'oculista. Cazzo, più di mezz'ora via il coso, in macchina. Via 4 novembre. Non ho capito cosa hai fatto via 4 novembre. Sì, è via dall'oculista, ho portato la nipote, ero più di mezz'ora in macchina. Ah, che preso. Da voi, cazzo, sono un traffico di la Madonna, per carità. Ah, io fissa a casa mia, lo traffico non ha già avuto. Sì, ma da via 4 novembre, andare dove c'è la pretella, per carità il casino che c'è. Lo so, poi ore di punta. Ha giocato bene, ma è giunto a casa io. Ma oggi mi fa male, veramente i piedi mi facevano male, Emanuele. I piedi la maggior parte proprio sempre tanta la carica. Ma quello lo fa anche a me, quando sto tanto in piedi lo stesso, i talloni, il più è i talloni che fanno male. No, no, vicino alla pianta del piede proprio, dove ci iniziano le dita, lì mi prende male un po'. A me invece dai talloni mi prende. Io stanotte mi raffico in asso, con una carrucola e mi sazzo in asso. Domani glielo finisci. Per forza devo finire domani. Mentre zappo lì, ma devo trovare per forza dietro là, devo togliere quell'altro cavo che c'è dentro, mettere la cavaletta sotto il gradino. Insomma, domani devo arrancare. Domani glielo finisci. Sì. Lo già rimetto la spina dove c'è il televisore pure, la presa. Per forza devo mettere quello lì, ma noi. Già ce l'ho la presa, tranquillo. Tanti che vi volanti, per carità. No, quei figli devo tutti annullare poi. Tanto cosa ne fai? Proprio né corrente né nuda, cazzo. Allora non vai in nuda, ma se non ne vai in nuda. Figli volanti, da poi pure cacca cazzo, insomma. È arrivato un casino in Kiwi, ma quando mai la faccio sulla Gianluverta che terra? Che scimmia casino, guarda. Non hai sentito che cazzo fanno il bosco umano in un Arucco? Cazzo, ognuno va via all'elettricista. Sì, sì. A me mi hai fatto, comprendi che è ignorante, che più o meno si arrangiava e buono, non sapeva il macchio che alcuno le pulino. Sì, no, guarda. Poi cavo così fino, vabbè, forse 40 anni fa, non è sì. Non mi pensavo a pulire un filo grosso. Ma cazzo, chi è che vuole entrare? Scusa, ha toccato il coso il bambino. No, sono io che stavo ascoltando e ha toccato il microfono al bambino. E chi fa? E chi fa, papà? Scusate. Tanto. Ciao. Sono sempre Duke Andy, scusate. L'ho tolto subito poi. Ciao Manuel, ciao anche a te, Tonino. Ah, ti ho salutato la prima, scusate. Tranquillo, non c'è problema. È così, Tony, è così. Stanno messo mani tutti quanti, non si comprende che hai la gutta che hai la gruda. Allora, no, volevo volare domani, devo finire per forza. Non finisco domani pomeriggio, ma finisco, perché domattina presto. Devo andare a lei compreso a prendere quel pezzo là, il coperchio, capito? Chiudere tutto. E poi niente. Mi metto subito, la prima cosa che faccio è la canaletta sotto il gradino, capito? Così asciuga tanto il silicone. E poi inizio dentro. Mi interessa trovare il neutro dentro a me. Sì, ma quel coperchio che devi mettere, ma per quei fili che ci sono, sopra. Scappa. E la fai per la buca eliminare. No, c'è collegamento, Manuel, sennò correvi così non va. Ma non fumetti sì. No, quei fili che non usi più, adesso tu devi cercare il filo che per far andare la luce della sala, così è, che non trovi la, come si chiama, il neutro. E tu poi quelli là, quelli che rimangono, quelli che ho già fai, li copri con la scatoletta. Sono quelli che elimino direttamente, tutti. Ehi, ma la scatoletta fa cosa disegni? Che la scatola non ce l'hai del quadro. La scatola, quella grande, ci vuole 25 cm per 25, serve per coprire il cavo enorme che hanno messo per il contattore, quello nero. Coprire la scatola di elevazione c'è all'interno dove passa quel cavo nero. Poi, i collegamenti, cominciamo a coprire quello lì, capito? Cazzo, manicomio, per carità. Oh, manicomio! E poi li vedi cosa li devo piazzare nella centralina. Una bella spia luminosa, quando quella spia è spenta vuol dire che corre interno ce n'è. Quando è accesa è in tensione. E dove la mette nel quadro? Scappa. Quello dopo glielo devi spiegare, se no la puglia no, non mi comprende nulla la puglia. Non devo spiegare niente, quello non spiega come dice che c'è corrente, o basta. No, che fa nulla, rimane sempre a zissa, fissa, e a lettera. E lei come quella di stamattina che ha staccato il filo e si è acceso il posto. Come l'interruttore bipolare che ho messo per il posto, ho detto, beh, la luce la vede? Sì, azzurrina, tu zia mi ha detto. Se è da casa non vede la luce, però l'interruttore è a 1, è acceso. Se è a 0, aspetta il posto. E vabbè, a tu io già si vede, penso, io penso che la vedi la bu. Penso. Sì, già si vede, dai. L'importante è che la tua cameretta c'è la luce e sta a posto, dai. Manco non troppo con la pira. È così, poi, è così, vabbè, importante che lui... No, ma già è contenta comunque, già è contenta, cazzo, era tutto un casotto di 7 anni, per carità, non si poteva lasciare un lato fa lì. Dai, lo trovo, te lo regalo, te lo voglio guardare nel cantone. Papà, attacca, buffa, sì, chi mi difende un capo? È ovvio che ci vogliono questo tempo qua, ma non è, si era già finita che ci vuole, è dimenticato. Purtroppo, hai visto cosa c'è? Un casotto, cos'è altro, non ho capito. Ho detto che se trovo un alimentatore te lo regalo io, cioè, non dovrei avere uno, da qualche parte, buono, bello forte. Sì, questo qua è 2 ampere e mezzo, quando scalda è messo a strappare. Ma già vi raggio io. È una alimentazione di pavia questo, da ZG. Ciao, ma va bene se è un po' grandetto, da 10 ampere. Sì, a Puglia. Allora già vi raggio io, non ti preoccupare. 10 ampere già va bene, ma quali sono quelli dei cinesi? No. Quelli che sono portati spegnati. Chi si vecchi? Eh? Quelli vecchi. Ma quali sono quelli della Intec? No, è una Alfa Electronic, non mi ricordo. E è un po' come la ZG, so. Ma è buono però. Sì, sì, quelli sì. Anche questi della ZG sono buoni, però questo qua è troppo basso. Scusami, Doni, se ti ho... Tranquillo. Sono un po' piccoli questi qui. Ciao, ma quanto hai visto? Da 2 ampere e mezzo, è basso. Già ne ho uno in magazzino, ne ho. No, uno in magazzino. Oh. Non me ne posso nulla. Vabbè, quando è... me lo dici, ci passa una mattina dopo. Riprendi Tony. Che ha preso qualcosa, mi attraviamo nel letto, riposami che faccio anche stanchezza e sonnolenza. Anche la sera andato lì alle 9 stamattina. 8:30, 8:35 con esattezza. Certo, sei sudato. Tu sei già se ne mi sa chi sono andato. Mia zia, sì. Io ero Mattesi, quindi. Manuè, io domani devo finire qua a forza. Perfetto, me. Che domani volevo volare devo finire. Tanto io mi fino, a me mi interessa l'indietro che c'è con la camera. Ah, già paghissimo, se no devo bucare con la punta lunga e farlo passare lì. Secondo me ci sono un abbuccato, abbuccare già, ma può fare il fuori e passare lì, sì. Ma il timore mio, sai cos'è, Emanuele? Domani porto con il succo. Il timore mio è che quando tu buchi da parte in parte, arriva quasi alla fine, che non deve rallentare piano, se no si sì, un malloco di intonaco è un casino, e poi diventa pure a torra. E piano devi fare, alla fine, quando sei quasi alla fine devi fare piano, è normale che se gli dai il colpo ti esce la, ti devi fare il buco nell'intonaco. Quello pure da 50 minimo, quindi devo segnarmi la punta che è da 70, 9, 50. Quando arrivo con lo scotch che devo segnato 50, automaticamente rallento piano. Che poi sono quei muri accanto nei bianchi, quelli che di una volta, non so proprio che sia. Sì, pesa un po' allora. Se c'è appicchi sotto il mi ravalla. Sono quelli accanto nei bianchi, non è a blocchetto. Blocchetto non c'è niente lì, a blocchetto forse lo trovi, dove abbiamo mangiato a blocchetto. E infatti ho visto quando ho bucato a mettere quelle scatole nuove dei interruttori del pozzo, come entrava la punta, ma che ridai, io trovo dritto perfetto e si pulsava, ammazza. E canto di bianchi, so. Ma comunque dai. Andiamo un punto adesso, dai, Emanuele. Vabbè, è quasi finito. È quasi finito. Quasi finito. C'è da fare ancora portare dietro lì con la camera, siamo a posto. Poi togli quel cavo che hanno fatto quel buco in alto, faccia di teca. Ma la domani, ecco. A bandare la cusiera feo, capo. Ah, quel cavo che scende. E allora? Quando mai non se n'è accorto, che? Ma neanche... Senti un altro lo fai il capo. Buco lo fai sotto, ma me non ho visto. Senti, da sopra e se fa la dugliosa. Ha fatto una cacciata, dai. No, le elimino, una volta metto la presa nuova là, fottettine, che non c'è bisogno di tutta quella prorunca, e sciopi di capo, che vogliai io, lui. Ma lo sa perché ha fatto sopra? Per non bucare la piastrella, perché se ne... Certo c'è il coso della piastrella. Vabbè, comunque. Io ho la spatolina, il raschietto, lo succo. Io lo faccio con il raschietto, poi con la spatola, ce lo liscio. E ne tappo tutto, anche dentro devo tappare. Capita, mi ha dovuto. Sì, ma lo capito che quei capi dove chiamano qui. Ma chi li ho tutti quanti testati quelli lì, Emanuele? Alma 1. Non ti dici di Brasucci Antani, non ti dà continuità a nessun posto. Ah, il capi dove c'è la corrente? Sì, quella che è sopra la centralina. Tutti quelli in alto, questi azzurri, grazie, un casino. A 1-1 le testate, Emanuele. Niente, non mi dà nulla. Allora quelli lì dei libri, se ti la tenuta non sai cazzo ne fai, e quelli dei dati. Per carità, come l'ho messi, poi quelli si mi piombati, me ne manca un pezzo in mano, dove c'è il cappuccetto, l'ho stretto, poi vado a riaprirlo, e non faccio più portata, non uscito perché si è rotto. Non ho capito, Tony, cos'è il cappuccetto? Quei fili che hai già esistiti, quei nini, che li ho collegati col giallo verde, addirittura si era staccato. Ma come mai si è staccato? E poi l'ho stretto bene il cappuccetto. A mai tu, e si è proprio, l'hai dato diretto, perché sono semifiumati che sono talmente grincati poi. E poi si fascia. Sì, perché sono quelli, tanto come le pieghe, non ha fatto una volta, si rimane in mano. Io sono sicuro, se mi si cocca mi trovo come noi. Coccati, coccati, vogliamo dire che io fa un po' già me ne vado a guardare la televisione a letto, però non si a letto. E anch'io me la guardo a letto, spreco con le cucine, quella grande grande, chiudo la porta e mi riposo, tanto i cucciucci hanno mangiato. Mi mangiano mela cacco, cacco mela, mela cacco, e buff. Cazzo, ce l'ho in cucina, non manco una paio di televisione. Dopo un anno che non attendo, poi l'altro giorno l'ho attesa, 10 minuti, mi manco la giustificata, ma neanche ne attendo. Comunque le ho appese le perettami, Manuè. L'ho appeso anche io, quella adesso le lascio asciugare, dopo una settimana, sai come sono. Diventano giate e buone. No, sono buone, a te perdere. Anda bene Meda, domani tu non ci passi. No, tu vieni, domani guarda, domani devo andare al Ghero con mio collega a prendere buste paghe, tu devo andare al barbiere a farmi i capelli. E niente, domani no, cazzo dopo due lì sono fare lì. E la barba non te la fai? No, la barba no, la barba deve crescere. Sì, vabbè, dai, la faccio crescere per non vedere perché è magro il viso. Ci si vede di più che il cicciotto. Non ce la metti tu lì, cazzo, sono povero, cazzo. Sto cercando uno che mi compra le lamette, ma non me ne compra nessuno. Non mi schiavo. Basta mangiare di macco, te lo compare, c'è la lametta. Ah tu? Già le buschiamo la lametta. Ah, se non me ne comprano nessuno, solo la lametta usata mi vogliono dare. No, io la lametta non mi dratto, io dratto un rasoio. Ah, no, rasoierito, no, rasoio, mai usato, una volta l'ho usato il rasoierito, mi faceva la faccia tutta la da buscicone. Io uso i rasoi, quelli che cambiano la lametta. Chi sono io idrato? Non idrato proprio gli elettrico, ma carità. Quelli proprio, ne ho preso uno per attirare, c'è un Wilson che era una bomba. Non si trovava le lame. Ho preso questo per la Gillette e va bene. Cosa c'è Gabriele? Ma noi si accusi un raso elettrico, mi si attrucciglia la barba, non ne sa che più. No, non ce la fa, no. Non mi trovo io, mai piaciuti i tonei, a parte lascia fare la barba, ma non li ho mai, li ho usato una volta, mi bruciava la faccia, non riuscivo a usarlo. Vabbè dai, io spiego, mi ci codico. Dai, ci copi, comunque domani quando si vive se passi un attimino pure come vuoi. Bene, Mela, ci ascoltiamo. Ciao, stai bene. Ciao, ciao, ciao Antonio. Vabbè, se sono di zona già ci sentiamo, dai. Tanto. Ciao, Tony, ciao, te lo sentiamo. Ragazzi, chi sta la bomba, neanche. Ciao, ciao. Ciao, ma qualche uno stava chiamando. Vabbè, dai, io mi accetto, tu. Ci sentiamo. Ciao, ciao. Chi è che sta fischiando? Avanti. Già. Figlia. Esci no, se entra la gente non si intende e ce ne va. Scappa cazzo, dai, l'ho abbassato un po', dai. Lo senti lo stesso, sì. Allora sai io come sono andato scendo, ci ho sentito lo splatter. Ti sentivo appena appena, ma ti sentivo. Non credo, via. Attaccato, il... No. Infatti ci deve essere gente, ma su 10 non c'è nessuno. Su 10 sentiva proprio un tantino, appena appena. Se abbassavo proprio le RPG non ti sentivo più. Però un po' lo sentito, deve essere c'è gente su 12 o su 11. Ma no, adesso ho abbassato un bel po' per non andare a disturbare, d'accordo? Ho sentito che stava chiamando. Per non andare a disturbare a Torre né a Gio Maria, capito? Quindi ho abbassato ancora, c'ho il coso per abbassare. Ma il microfono si è abbassato? No, ho abbassato molto di potenza. È il microfono che disturba, il microfono che è troppo alto, capito? Quello è. No, adesso va meglio. Ma sì, tu? E vabbè. C'è Antonio. Che vuoi che ti dica? Siete vicini. Kappa. Che riuscivo a fare nello stesso canale e non c'è problemi, oppure se volessi decidere di fare un altro canale è quella la ragione, di subito rimito. No, adesso dovrebbe andare bene, ciao Lu, dovrebbe andare bene adesso, capito? Ciao Cuca. Ciao, buonasera. Stamattina è andato, sì. Certamente, io tornerò la mattina perché mi sono dimenticato, ma di bisciato che volevano le urine anche della mattina, oltre che quelle delle 24 ore. No, io ho fatto quella della mattina un'altra volta, cioè per 24 ore. E allora domani ci vediamo perché devo andare domani io. Vado alle 8, gli consegno anche prima, perché poi il 15 devo avere per forza l'esito, capito? Cioè entro il 15, che il 15 c'ho la visita. Ascolta, beh, quando ti ha preso? 30 e qualcosa. Cazzo, allora. Se non ho badinato non può fare l'esame, non ho capito. I fondi sono finiti, allora, da gennaio. Non è che lo decidi tu, te lo danno loro l'appuntamento, quindi lo devi fare quando te lo chiedono loro. Poi mi devo presentare fra qualche giorno, mi devo presentare lì al centro di abiti. Ah, io la faccio due volte l'anno la visita, mica... Non mi chiamo due volte l'anno e buco. E perché gli altri devono farlo così? Ogni sei mesi si fa. Esattamente, sicché a me mi fa l'impegnativa già la diabetologa di tutte le prelievi eccetera, così che io non faccio altro che 3-4 giorni prima faccio il prelievo, faccio quello che devo fare. Idem. Ormai siamo... ma... vai tu. Kappa mia, adesso sto facendo la prova per vedere se tutto a posto e via. Ci siamo riusciti, da, ok. Solo Luca, se paghi col banco ma ti recuperi qualcosa con 730, se invece paghi in contanti non recuperi nulla. Ma com'è che devo buttarlo su? Io adesso domani pago col banco, ma così almeno mi fa la ricevuta e me la scarico con 730. Anche sì. Perché l'altra volta quando sono andato a fare il 730 ho fatto alcune visite, ho pagato in contanti, dice no, queste non valgono perché non c'è lo scontrino e ci deve essere lo scontrino applicato, devi pagarla col banco. Ma... E siamo riusciti a non ammazzarci a vicenda. A cosa? No, perché non li entro, capito? Non li entro. Lascia perdere che io sono ubriaco e li sento lo stesso. Però adesso va bene. Ma metti l'altro microfono, cazzo, male. Senta la buba, male un ghiccio. Senta un tubo. Quello è mi. 4. Sì, ma lo so io però. Come ti sono usato, cioè come mi sono alzato, adesso sono tutto da accusare. Bene va adesso. Ah, se buono a te. Ma se metti l'altro e abbassi, scusa, almeno esci piano di radio. Va bene, là, lo proviamo adesso, là. Aspetta un attimo che comodo. A due no, Antonio. E allora. Cioè quello modificato. È quello normale. Però quello modificato gliela fa più chiara la voce. Basta che abbassi l'amplificazione se non vuoi disturbare, però è molto più chiara. Ma io pensavo che fosse tutt'uno che toglieva la modifica e parlava normale, poi la metteva. Avevo capito così. Guarda a vedere. Va bene. Dovrebbe andare bene, io penso. Per me va meglio questa. Vai già.